nessuno qua, tutti morti siete. Sì, c'era qualcuno vivo a Tarifi. Meno male, Giomarì, meno male. Buongiorno, buona domenica. Credevo che erano tutti morti. Ehi, c'era qualcuno vivo ancora. Comunque, buongiorno e buona domenica anche a voi, dai. No, stavo ascoltando così, era acceso, ma stavo guardando la TV, era parecchio acceso. E allora, ogni tanto, dopo una volta, vi diceva che mostro resusciteggia, Giomarì, hai pittina. Ma infatti, infatti, stavo piazzando questo apparecchio qua, con questo antennino. Ho messo a posto il microfono e già sembra che funzioni bene là. E che antennino è, Giomarì? Perché anche io devo buscarmi un antennino per poter ascoltare questo canale quando sono su un altro, là. È la Somo 27, la Somo 27. Ma ce l'hai piazzata sul tetto, così è? Ce l'ho piazzata sul tetto, infatti. E se no, no, va bene. Già l'ho piazzata sul tetto, l'ho piazzata vicino a quella sua antenna, capito? Sì, ho capito, ho capito. E io invece non la posso piazzare sul tetto, come faccio a salire? Avrà tutto chiuso quello lì, quindi non ci posso salire sul tetto. Se no già l'avrei messa nello stesso palo di quella che sto usando adesso. Perché avevo un'antenna solo, non andare, ce ne vuole un'altra. Ma io ce l'avevo sul frigo qua, dentro casa, e ricevevo con quella della macchina. Ne ho buscato un'altra, però dentro non riceve, ed è uguale mi. Una PLC 800, però non ricevi, ma ricevi bisogna che la bonghi a vura. Beh, certo che se avessi avuto la possibilità di mettere sul tetto sarebbe stata ideale. Beh, anch'io ho la frusta nera in magazzino. Visto che anche Giulio si può immaginare con la frusta nera in magazzino. E poi me, eppure mi sentono, capito? Che anche dentro casa gli va. Ma questa qui non funziona dentro casa. O c'è qualche cosa che non va, che non riesco a capire io, eppure l'ho provata, l'ho misurata col test e non c'ha nulla l'antenna. Però non ricevi. Se trasmettevo pure con quella che ho in macchina, però quella non la toccano. Se no dopo non ho l'antenna per la macchina. Può essere anche che magari quel punto dove sei tu magari non prende, capito? Però strano, dovrebbe prendere. E io sono giù in magazzino, ci sono mangiare dentro, eppure mi sento Giulio, cazzo, mi sento anche Pomponio, per dirti no. Però con la frusta nera, E vabbè, io trasmettevo pure con quella PLC 800, ce l'avevo sopra la base magnetica, l'avevo messa sopra il frigo di casa. Beh, allora che non ricevi, ne ho una uguale e non riceve. Non riceve più. Cosa vuoi che ti dica? Adesso farò una staffa e la metterò dove c'ho quell'antenna bimanda per il ricevitore, fuori dalla finestra. Vediamo un po', perché fuori dalla finestra ho messo la magnetica e già riceve. Quindi me la tolgo dalla magnetica e la metto in una staffa. Prova a vedere un po'. Il sistema ci deve essere per forza, perché capita. Non è che sei in basso, ma sei abbastanza in alto, per cui dovrebbe uscire. Boh, strano che non va bene. Prova a avere di nuovo la tariffa, il punto giusto, può darci spostandola, perché certe volte basta spostare di 5 cm e funziona bene. Sì, già la lungo pura, là. La metto fuori, Giomarì, la metto in una staffa e l'attacco a quel tubo lì che c'è fuori dalla finestra. E con quella provo a vedere, non tanto non mi interessa per trasmettere, mi interessa per tenere sotto controllo questo canale. Se io me ne vado per esempio nei canali di sopra, se uno parla non lo sento se non c'è l'antenna su questo canale, capito là? E anche quello è vero, riprova là, cerca di un sistema giusto, che si chiama buono e vedrai che ricevi. Ok, la tenda, devo chiudere che sta venendo gente, ciao, ci sentiamo. E faremo così, giornali. Vediamo a vedere se ci riesco. Tanto per tenere sotto controllo questo canale mi serve e basta. Dato che è un canale di morti, visto l'area acrobatica che mi tocca fare. Anche quello è vero. Beh, purtroppo non tutto si può avere certe volte nella vita. Però bisogna ingegnarsi, ecco. Per cui un punto buono si dovrebbe trovare. Prova a vedere un po'. Ok Natali, ci sentiamo. Andando stai, va bene Giomari, grazie per essere entrato a fare la mattutina. Buona domenica a te e famiglia e ci sentiamo alle prossime. Grazie per la chiacchierata, ciao Giomari. Ok, ciao, ho ricambiato tutto, ciao. Attenzione, canale 10, cambio. Chi è? Buongiorno Tino, buongiorno, sto provando l'apparato. Chi sei? Non mi ascolti? Sì che ti ascolto, chi sei? Ciao Tari, è un apparato piccolino sto provando, Tino, buongiorno. Ah ciao Tino, sì che ti ascolto. Ascolta, mi dai un controllo di segnale, da così se cambia, non lo so, guarda un attimino. Ma così ci ha cambiato qualche cosa la Tari. Hai abbassato, hai. Comunque, 9 il segnale. Capito? Con quell'apparatino. Sì, ti ascolto come la voce, però è telefonica, là. Non è una bella radio, sì. Lo so, Natalie, lo so. È un microfono normale, una saponetta. È una scatola di sigarette questa qua, là. È un Intec M340S, di quelli piccolini. Non so se ti ricordi. Ce l'ho anch'io per la macchina quello lì e il mio funziona benissimo, c'ho il microfono suo originale e pompa, quello che c'ho io va bene. Capo dai, questo qua è un microfono suo originale, è giusto per l'ascolto l'ho messo, dai. Va bene, ti ringrazio Natali, ti saluto, dai un abbraccio che vado a preparare. Capo. E anch'io fra un po' vado a preparare, no problem. Ciao sì, buona domenica, buon tutto, salutoni. Guarda, un'ultima prova, Natale, dimmi quanto incrementa, aspetta, te lo passo, così lo vedi meglio, così è senza niente, non c'è senza niente, e così aiutando, così mi dai un rapporto. Sì, no. Allora. Vediamo, vai, se ha cambiato qualche cosa, Natali. Carlo tu sei? O sei Carlo o sei coso? Marcolino? BDB, non esci? Non esci con questo BDB?